Il terzo anello ad alta voce. Memorie di Adriano, di Margheriti Jursenar. Se fosse durata troppo a lungo, la vita di Roma m'avrebbe inasprito, corrotto o logorato. Tornare alle armi mi salvò. La vita militare comporta anch'essa qualche compromesso, ma meno impegnativo. Partire per l'esercito significava viaggiare. Partii folle di gioia. Ero stato promosso tribuno alla seconda legione, la diutrice. Trascorsi qualche mese d'un autunno piovoso sulle sponde dell'Alto Danubio, senz'altra compagnia che l'ultima opera di Plutarco. In novembre fui trasferito alla quinta legione macedone, acquartierata a quei tempi, come tuttora, alle foci di quello stesso fiume sulle frontiere della Mesia Inferiore. La notizia dell'assassinio di Domiziano, annunciata pochi giorni dopo il mio arrivo al campo, non meravigliò nessuno e rallegrò tutti. Ben presto Traiano fu adottato da Nerva. L'età avanzata del nuovo principe rendeva questa successione una faccenda di mesi, al più tardi. La politica di conquiste, nella quale si sapeva che mio cugino si proponeva di impegnare i concentramenti di truppe che cominciavano a effettuarsi, e il progressivo irrigidirsi della disciplina, tenevano l'esercito in uno stato di fervore e di attesa. Il patriottismo romano, la fede incrollabile nei benefici della nostra autorità su tutte le genti nella missione di Roma di governarle, in quegli uomini del mestiere assumevano forme brutali, alle quali non ero ancora assuefatto. Alle frontiere, proprio là dove sarebbe stato saggio usare diplomazia, almeno sul momento, per conciliarci alcuni capi nomadi, i militari eclissavano completamente i politici. Le prestazioni obbligatorie e le requisizioni in natura davano luogo ad abusi di cui nessuno si sorprendeva più. Grazie alle discordie perpetue tra barbari, la situazione a nord-est, a conti fatti, era la più favorevole che si potesse sperare. Dubito persino che le guerre ulteriori l'abbiano migliorata in qualche modo. Gli incidenti di frontiera ci provocavano scarse perdite, preoccupanti solo perché reiterate. Riconosco però che quello stato di allarme permanente serviva almeno a tener desto lo spirito di corpo. Tuttavia ero persuaso che si sarebbe riusciti, con un dispendio minore, ma esercitando maggiore perspicacia, a soggiogare alcuni capi, ad attirarci le simpatie degli altri, e stabilii di consacrarmi in particolar modo a quest'ultimo compito, che tutti trascuravano. Mi ci spingeva la mia inclinazione verso tutto ciò che è esotico. Frequentare i barbari mi piaceva. Il vasto paese che si estende tra le bocche del Danubio e quelle del Borístene, un triangolo del quale ho percorso almeno due lati, vanta alcune tra le regioni più sorprendenti del mondo, almeno per noi, nati sulle rive del mare interno, avvezzi ai paesaggi nitidi e aridi del sud, alle colline, alle penisole. Laggiù mi è accaduto di adorare la dea Terra come qui adoriamo la dea Roma. E non parlo tanto di Cerere, quanto d'una divinità più antica, anteriore persino alla scoperta delle Messi. Il nostro suolo greco o latino, sostenuto ovunque dall'ossatura delle rocce, ha l'eleganza schietta d'un corpo virile. La terra scita aveva l'opulenza un po' greve d'un corpo riverso di donna. La pianura si confondeva con il cielo. Non finivo mai di stupirmi di fronte al miracolo dei fiumi. Quella vasta terra vuota rappresentava soltanto un declivio e un alveo. I corsi d'acqua da noi sono brevi, non ci si sente mai lontano dalle sorgenti, ma quel flusso enorme che sfociava in estuari intricati trascinava il fango di un continente sconosciuto, i ghiacci di regioni inabitabili. Non c'è freddo più intenso di quello di un altipiano di Spagna, ma laggiù mi trovavo faccia a faccia per la prima volta con l'inverno autentico. Nei nostri paesi esso non fa che apparizioni più o meno fugaci, ma laggiù si insedia per periodi interminabili di mesi e più a settentrione si indovina immutabile, senza inizio e senza fine. Thank you. Traiano si trovava alla testa delle truppe nella Germania inferiore. L'armata del Danubio mi inviò a recare i suoi rallegramenti al nuovo erede dell'impero. Mi trovavo a 3 giorni di marcia da Colonia, in piena Gallia, quando, durante la tappa della sera, ci fu annunciata la morte di Nerva. Fui tentato di precedere il Corriere Imperiale e di recare io stesso la notizia del suo avvento a mio cugino. Partii al galoppo e viaggiai senza fermarmi in nessun luogo, salvo a Treviri, ove risiedeva mio cognato Serviano in qualità di governatore. Cenammo insieme. La mente vacua di Serviano era piena di fumi imperiali. Quell'uomo tortuoso cercava di nuocermi, o almeno di impedirmi di aver successo, e almanaccò di prevenirmi inviando un suo messo a Traiano. 2 ore dopo, al guado d'un corso d'acqua, subii un'aggressione. I sicari ferirono la mia ordinanza e uccisero i nostri cavalli. Riuscimmo tuttavia a catturare uno dei nostri aggressori, un antico schiavo di mio cognato, e costui confessò ogni cosa. Serviano avrebbe dovuto rendersi conto che non si ferma tanto facilmente un uomo risoluto di proseguire il suo cammino, a men di non giungere fino al delitto davanti al quale la sua viltà indietreggiava. Mi toccò fare a piedi circa 12 miglia prima di incontrare un contadino che mi vendette il suo cavallo. Giunsi a Colonia la sera stessa, precedendo di poche lunghezze il messo di mio cognato. Questa singolare avventura ebbe successo e le accoglienze nell'armata furono ancora migliori. L'imperatore mi trattenne presso di sé in qualità di tribuno della seconda legione, la Fedele. Aveva appreso la notizia del suo avvento con disinvoltura ammirevole. Se l'aspettava da tempo, i suoi progetti non ne venivano modificati affatto. Restava quello che era stato sempre, quel che sarebbe stato fino alla morte, un capo delle forze armate. Ma la sua virtù consisteva nell'aver acquisito, grazie a una concezione tutta militare della disciplina, un'idea di quel che è l'ordine nello Stato. Tutto si disponeva attorno a questa idea, perlomeno agli inizi. Persino i suoi piani di guerra e i suoi progetti di conquista. Imperatore soldato, sì, ma non soldato imperatore. Non mutò nulla della sua vita. La sua modestia non aveva bisogno né di affettazione né di boria. Mentre l'esercito faceva festa, egli accettava le responsabilità nuove come una parte del suo lavoro quotidiano e mostrava la sua contentezza agli intimi con semplicità. Gli ispiravo scarsissima fiducia. Era mio cugino, di 24 anni più vecchio di me, e dopo la morte di mio padre, mio cotutore, adempiva i suoi doveri verso la famiglia con la serietà che si usa in provincia, pronto a far di tutto per promuovermi, se ne ero degno, ma a trattarmi con maggior rigore di chiunque altro se mi mostravo incompetente. Per le mie follie giovanili aveva mostrato un'indignazione non del tutto ingiustificata, ma di quelle che si hanno solo tra parenti. I miei debiti, del resto, lo scandalizzavano più delle mie sregolatezze. Altri aspetti della mia natura lo impensierivano. Uomo di scarsa cultura, nutriva un rispetto commovente verso i filosofi e i letterati, ma altro è ammirarli alla lontana, altro avere al proprio fianco un giovane luogotenente invasato di letteratura. Ignorando dove si trovassero i miei principi, i miei freni, riteneva che ne fossi sprovvisto e alla mercé degli istinti. Però non avevo commesso mai l'errore di trascurare il servizio. La mia reputazione di ufficiale lo rassicurava, ma per lui non ero che un giovane tribuno promettente da sorvegliare da vicino. Thank you. La prima spedizione contro i Daci fu lanciata l'anno seguente. Io mi sono sempre opposto, sia per inclinazione che per politica, a tutte le guerre, ma sarebbe stato troppo al di sopra o al di sotto dell'umano non inebriarsi per quelle grandiose imprese di Traiano. Visti nell'insieme, a distanza, quegli anni di guerra posso annoverarli tra quelli felici. Gli inizi furono duri, o almeno tali mi parvero. Sulle prime occupai posti subalterni. Non avevo ancora guadagnato interamente la benevolenza di Traiano, ma conoscevo bene il paese, sapevo d'essere utile. Quasi a mia insaputa, un inverno dopo l'altro, un accampamento dopo l'altro, una battaglia dopo l'altra, sentivo crescere in me le obiezioni alla politica dell'imperatore, obiezioni che in quell'epoca non avevo né il diritto né il dovere di esprimere ad alta voce, e del resto nessuno mi avrebbe dato retta. Quanto più ero messo in disparte, al quinto grado o addirittura al decimo, tanto meglio conoscevo le truppe e partecipavo alla loro vita. Possedevo ancora una certa libertà d'azione, o piuttosto consideravo con un certo distacco l'azione in se stessa, cose che ci si permettono difficilmente una volta giunti al potere e varcati i 30 anni. E avevo qualche vantaggio al mio attivo: la simpatia per quel paese inclemente, la passione per tutte le forme volontarie e del resto intermittenti di privazioni e di austerità. Ero forse il solo tra gli ufficiali giovani a non avere nostalgia di Roma. Più si prolungavano gli anni nel fango e nella neve, più si mettevano in evidenza le mie qualità. Vissi laggiù tutta un'epoca di esaltazione straordinaria, dovuta in parte all'influenza di un gruppo di luogotenenti che avevo intorno. Essi, dalle più remote guarnigioni d'Asia, erano venuti a conoscenza di strane divinità. Il culto di Mitra, che allora era meno diffuso di quel che non sia divenuto dopo le nostre spedizioni contro i Parti, mi attirò qualche tempo con le esigenze di quell'arduo ascetismo che tendeva duramente l'arco della volontà, con l'ossessione della morte, del ferro e del sangue, che elevava a livello di spiegazione del mondo i banali disagi della nostra esistenza di soldati. Nulla poteva contrastare di più con le opinioni che cominciavo a formarmi sulla guerra. Ma quei riti barbari, che creano tra gli affiliati legami di vita e di morte, lusingavano le fantasticherie più recondite d'un giovane impaziente del presente, incerto dell'avvenire e, proprio per questo, accessibile agli dèi. Fui iniziato in una torre di legno e di canne in riva al Danubio. Fu mio padrino Marcio Turbo, un compagno d'armi. Ricordo che il peso del toro agonizzante fu lì per far crollare il pavimento a graticci sotto cui stavo per ricevere l'aspersione del sangue. In seguito ho riflettuto ai pericoli che possono rappresentare per lo Stato, sotto un principe debole, siffatte società segrete, e ho finito per infierire contro di esse, ma confesso che quando si è in presenza del nemico esse conferiscono agli adepti una forza quasi sovrumana. Ciascuno di noi era convinto di sfuggire ai limiti della propria umana condizione. Si sentiva se stesso e l'avversario simultaneamente. Simile al dio di cui non sa più se muore nelle spoglie di bestia o se uccide sotto forma umana. Quei sogni bizzarri che a volte oggi mi sgomentano non differivano poi profondamente dalle teorie di Eraclito sull'identità dell'arco e del bersaglio. Allora mi aiutavano a tollerare la vita. La vittoria e la sconfitta si mescolavano, si confondevano, erano raggi diversi d'una stessa luce solare. Quei fanti daci che calpestavo sotto gli zoccoli del cavallo, quei cavalieri sarmati abbattuti in seguito nei corpo a corpo dove i nostri cavalli impennati si mordevano al petto, ma era tanto più facile colpirli in quanto mi identificavo con loro. Se fosse rimasto abbandonato sul campo di battaglia, il mio corpo spoglio delle vesti non sarebbe stato tanto diverso da loro. Identico sarebbe stato l'urto dell'ultimo colpo di spada. Ti confesso qui pensieri singolari, fra i più segreti della mia vita, e un'ebbrezza strana che non ho mai più ritrovato esattamente sotto quella forma. Un certo numero di azioni brillanti, che forse compiute da un semplice soldato non si sarebbero nemmeno notate, mi procurarono una reputazione a Roma e una certa notorietà nell'armata. La maggior parte delle mie sedicenti prodezze, d'altro canto, non erano che bravate inutili. Oggi vi scopro, non senza vergogna, la mia bassa voglia di successo a qualunque prezzo e di emergere insieme a quell'esaltazione quasi sacra di cui ti parlavo poc'anzi. Fu così che un giorno d'autunno traversai a cavallo il Danubio gonfiato dalle piogge, avendo indosso l'armatura pesante dei militi batavi. Di questo fatto d'arme, se tale si può chiamare, il mio cavallo ebbe maggior merito di me. Ma quel periodo di eroiche follie m'ha insegnato a distinguere tra i diversi aspetti del coraggio. Quello che mi piacerebbe possedere sempre dovrebbe essere gelido, indifferente, scevro da qualsiasi esaltazione fisica, impassibile come l'equanimità d'un dio. Non mi lusingo di averlo raggiunto mai. In seguito mi sono servito d'una contraffazione di esso, ma questa, nei miei giorni peggiori, non era che cinica noncuranza della vita e, in quelli migliori, senso del dovere al quale m'aggrappavo. Ma ben presto, per poco che durasse il pericolo, l'uno o l'altro sentimento cedevano il posto a un delirio di intrepidità, specie di strano orgasmo dell'uomo unito al suo destino. All'età che avevo, questo coraggio insensato persisteva incessante. Un essere ebro di vita non pensa alla morte. La morte non esiste. Ciascuno dei suoi gesti la nega. Se ne è colpito, probabilmente non se ne accorge. Per lui essa non è che un colpo, uno spasimo. Sorrido amaramente nel ripetermi che oggi, su due pensieri, uno lo dedico alla fine. Come se si dovessero far tante storie per convincere all'inevitabile questo nostro corpo logorato. A quei tempi, invece, un giovane che avrebbe perduto molto a non vivere qualche anno di più, rischiava il suo avvenire allegramente ogni giorno. Sarebbe facile mostrare quel che t'ho raccontato finora come la storia d'un soldato troppo letterato che vuol farsi perdonare le sue letture, ma semplificare così la prospettiva è falso. Regnavano in me, di volta in volta, personaggi diversi, nessuno dei quali molto a lungo, ma presto quello esautorato riconquistava il potere. L'ufficiale meticoloso, fanatico della disciplina, pronto a dividere con gioia le privazioni della guerra con i suoi uomini, il malinconico sognatore di dei, l'amante pronto a tutto per un istante di ebbrezza, il giovane luogotenente altero che si ritira sotto la tenda, studia le sue carte alla luce d'un lume e non fa mistero agli amici del suo disprezzo per come va il mondo, finanche il futuro statista. Ma non dimentichiamo neppure il cortigiano ignobile, che per non dispiacere accetta di ubriacarsi alla tavola imperiale, il giovincello che sentenzia dall'alto su ogni questione con sicumera ridicola, il parlatore frivolo, capace di perdere un amico per una battuta, il soldato che compie con precisione meccanica i suoi bassi compiti da gladiatore. E ricordiamo pure quel personaggio vacuo, senza nome, senza posto nella storia, ma che è me stesso tanto quanto tutti gli altri, semplice zimbello delle cose, null'altro che un corpo disteso sul letto da campo, distratto da un profumo, preoccupato d'un soffio, vagamente attento al ronzio incessante di un'ape. Poco a poco entrava in funzione un nuovo venuto, un direttore di compagnia, un regista. Conoscevo i nomi dei miei attori, regolavo loro entrate e uscite plausibili, tagliavo le risposte inutili, evitavo con cura gli effetti volgari, imparavo, infine, a non abusare del monologo. Poco a poco le mie azioni mi formavano. I successi militari avrebbero potuto attirarmi l'invidia d'un uomo che fosse stato meno grande di Traiano, ma il coraggio era la sola lingua che egli comprendesse immediatamente, le cui parole gli parlassero al cuore. Finì per vedere in me un secondo se stesso, quasi un figlio, e nulla di ciò che avvenne in seguito poté mai separarci completamente. Da parte mia, Alcune riserve alle sue opinioni che nascevano in me furono messe in disparte, per il momento almeno, obliate al cospetto del suo mirabile genio militare. M'è piaciuto sempre vedere un grande specialista al lavoro. L'imperatore, nel suo campo, era di un'abilità, di una sicurezza senza pari. Messo alla testa della legione Minervina, la più gloriosa di tutte, fui comandato a distruggere le ultime trincee del nemico nella regione delle porte di ferro. Accerchiata la cittadella di Sarmizagetusa, entrai al seguito dell'imperatore nella sala sotterranea dove i consiglieri del re Decebalo s'erano appena avvelenati durante l'ultimo banchetto, ed ebbi dall'imperatore l'incarico di dar fuoco a quel singolare coacervo di morti. La sera stessa, tra i dirupi del campo di battaglia, Traiano mi infilò al dito l'anello di diamanti che aveva ricevuto da Nerva e che era rimasto quasi il pegno della successione al potere. Quella notte m'addormentai contento. Gianni Musi ha letto Memorie di Adriano di Margherita Yourcenar, riduzione e regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.